Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Purtroppo la situazione è paradossale. Non solo è paradossale, rischia di diventare assurda. Cioè, fino a quando il concessionario è Autostrade, è evidente che il ponte non può che automaticamente essere nella concessione di Autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere questa procedura. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Conte sta parlando del caso del giorno, le forti polemiche sulle concessioni autostradali, sulla concessione ad Aspi per quanto riguarda anche il ponte di Genova. È contenuta questo affidamento, diciamo, in una lettera scritta dalla ministra dei trasporti, delle infrastrutture De Micheli, che oggi ha parlato a 24 mattino, dopo la sentiremo, che dice che per quello che appunto è l'accordo tra le regole che normano questo contratto tra il governo, tra lo Stato italiano e la società Autostrade, società Aspi della famiglia Benetton, prevede insomma che sia almeno pro tempore affidato il ponte Morandi, il nuovo ponte di Genova anzi, per poter essere inaugurato al concessionario autostradale che è Aspi. Molte polemiche, quindi con tensione all'interno del governo, della maggioranza, tra le due forze maggiori, PD e Movimento 5 Stelle, perché la ministra De Micheli è del PD, anche se il PD dice che bisogna decidere velocemente quindi che cosa fare di queste concessioni. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle, con Di Maio in testa, ma anche Crimi, il capo politico, dicono non facciamo neanche un passo indietro sulla questione di levare la concessione ad Aspi. Però poco fa, è arrivata circa un'ora fa, la decisione attesa della Corte Costituzionale sul ricorso di Autostrade che era stata esclusa dalla demolizione e ricostruzione del nuovo ponte di Genova. Cosa ha deciso la Consulta? Da torto Autostrade, dice, fu legittimo escludere Aspi dalla costruzione del nuovo ponte. Quindi poco fa il Presidente del Consiglio Conte ha detto questo ci dà ulteriore forza e legittimità nel nostro percorso, quindi nell'avvicinamento insomma di questa revoca delle concessioni. Ma poi approfondiremo molto questo argomento perché ci sarà ospite qui a Effetto Notte il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Molti anche gli altri argomenti, però non ve li sto a anticipare. Man mano seguite, non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. C'è per voi, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al numero 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Twitter di Effetto Notte durante la diretta oppure Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. I dati sul coronavirus in Italia: risalgono i contagi nelle ultime 24 ore, 193 nuovi positivi e 15 morti, e finalmente l'ospedale di Bergamo non ha più malati Covid dopo 137 giorni dal primo ricovero. Le misure economiche e l'Europa, asse tra Conte e Sanchez, Spagna e Italia premono per un accordo a luglio sul Recovery Fund. Merkel dice l'Europa trovi l'intesa, bisogna aiutare i cittadini. Genova, il governo diviso sulla decisione di affidare ad Aspi, anche se pro tempore e come atto dovuto verso l'attuale concessionario, la gestione del nuovo ponte. E intanto la Consulta ha deciso, non è stato illegittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del ponte. Un uomo senza HIV da un anno grazie a un mix di farmaci. Si profila una speranza di guarigione per la prima volta senza trapianto. Calcio 31esima di Serie A maschile con 12 squadre in campo. Dalle 21.45 l'Atalanta vede il terzo posto. Partiamo quindi come sempre dai dati aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Risalgono i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 casi, mentre ieri erano 138, e intanto resta l'allarme per gli ingressi in Italia di passeggeri provenienti dal Bangladesh. 13 le regioni senza casi in Italia, le cui restanti contano 193 nuovi contagi e 15 decessi, 12 dei quali in Lombardia, dove le nuove infezioni sono 71. 31 i nuovi casi in Emilia-Romagna, che purtroppo registra un nuovo focolaio nel Parmense, in un'azienda di ovoprodotti, con in tutto attualmente 33 positivi. In Veneto, tra i 7 nuovi contagi, anche quello di una bimba di un anno. Intanto, dopo il caso dell'imprenditore vicentino, che resta in terapia intensiva in condizioni gravi, è preoccupazione per un altro imprenditore Veneto risultato positivo a sorpresa al suo arrivo in Africa per un viaggio di lavoro. L'uomo aveva incontrato diverse persone prima della scoperta. Ora sono 50 in quarantena nel veneziano e in particolare nella riviera del Brenta, visto che il contagiato è un noto imprenditore di Mira. Nel Lazio, dei 14 nuovi casi, 7 risultano collegati alla comunità bengalese, cluster che ha provocato uno stop dei voli da Dacca. Cittadini bengalesi sono però arrivati in giornata agli scali di Roma e Milano a bordo di aerei della Qatar Airways provenienti da Doha. Oltre 100 a Fiumicino, una quarantina alla Malpensa, i bengalesi non sono stati fatti scendere dagli aerei e ora stanno tornando indietro. Gli altri passeggeri, regolarmente sbarcati, dovranno però rispettare la quarantena anche in caso di tampone negativo. Il ministro della Salute Speranza nel frattempo ha scritto a Bruxelles invocando misure più rigorose e condivise per quanto riguarda gli arrivi da aree extra Schengen ed extra UE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è una notizia sul caso dei camici in Lombardia. Andrea Dini, il titolare della società Dama SRL e cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, e Filippo Bongiovanni, direttore generale della società Aria, la centrale di acquisti regionale, risultano indagati dalla Procura di Milano per il reato di turbata a libertà nel procedimento di scelta del contraente nell'inchiesta, con al centro la fornitura di camici e altro materiale per 513.000 euro durante l'emergenza Covid. E a proposito di Covid e della crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, sono aumentate del 12% le famiglie italiane che dichiarano di non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Prima della pandemia erano il 46%, adesso sono il 58%. Inoltre, 3 famiglie su 10 avrebbero difficoltà a reperire 2.000 euro entro un mese per una spesa imprevista, come ad esempio la riparazione dell'auto, l'acquisto di un elettrodomestico o una spesa medica. I dati sono emersi dall'indagine Emergenza Covid-19, gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria, commissionato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria alla DOCSA e diffusi dalla Consob. Adesso, per quanto riguarda il resto del mondo, i contagi continuano a salire negli Stati Uniti, dove i casi accertati oggi hanno superato i 3 milioni. Superata quota 3 milioni di contagi, gli Stati Uniti si confermano l'epicentro mondiale della pandemia di coronavirus. La Casa Bianca fa sapere che saranno inviati medici negli stati più colpiti, Texas, Arizona, California e Florida, ma il presidente Trump minaccia anche di tagliare i fondi pubblici alle scuole se non riapriranno. In Brasile, secondo paese più colpito al mondo, 18 ministri si sottoporranno al tampone dopo che il presidente Bolsonaro ha confermato di essere risultato positivo. Il coronavirus avanza anche in Russia, dove i casi accertati sono oltre 700.000. In Europa una ripresa dei contagi è segnalata in Austria. Alcuni Länder nel nord del paese hanno reintrodotto l'obbligo della mascherina in negozi, ristoranti e uffici pubblici. La curva dei contagi si mantiene invece stabile in Francia, con l'eccezione di alcune banlieue parigine, mentre in Serbia, dopo i disordini scoppiati nella notte a Belgrado, il governo potrebbe fare marcia indietro sulle nuove misure restrittive annunciate per il fine settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo al Ponte di Genova. Governo diviso sulla decisione di affidare ad ASPI, anche se pro tempore come atto dovuto verso l'attuale concessionario, la gestione del nuovo Ponte di Genova. La ministra De Micheli sottolinea che la scelta non preclude l'eventuale revoca delle concessioni, ma il Movimento 5 Stelle attacca: non arretriamo, il ponte non va riconsegnato ai Benetton. E poi anche Di Maio dice, chiede di mantenere la promessa fatta alle famiglie delle vittime, che i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade e tantomeno il ponte. Salvini però attacca da parte dell'opposizione, dice: cosa non si fa per salvare la poltrona? I 5 Stelle sono ridicoli e bugiardi. Intanto però, come vi dicevo, la Consulta, circa poco più di un'ora fa, ha deciso: non è stato illegittimo escludere ASPI dalla ricostruzione del ponte. Allora, questo è il commento di Conte, Presidente del Consiglio, che dice: ci conforta che la Consulta abbia confermato la piena legittimità costituzionale della soluzione normativa che venne a suo tempo elaborata dal Governo. E su questo argomento ci sarà modo di approfondire ulteriormente, tra l'altro sarà ospite qui tra poco il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Economia e Europa: se Angela Merkel ha abbassato le sue pretese sul recovery fund, non credo, confido nel suo coraggio e nella sua visione politica. Chi ha coraggio e visione non può abbassare le pretese sul negoziato, lo ha detto Giuseppe Conte incontrando i cronisti presso l'ambasciata italiana a Madrid. Chiudere entro il mese l'intesa in Europa sul recovery fund, lo dicono chiaramente Italia e Spagna dopo il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier spagnolo Pedro Sanchez in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. È necessario osare, afferma Conte, non possiamo essere indulgenti, qui è in gioco il mercato unico. Non possiamo permetterci di rinviare, di tenere aperto un negoziato, anche perché La tempestività è un fattore chiave per valutare l'adeguatezza della risposta. Bruxelles, argomenta il Presidente del Consiglio, deve dare una risposta elevata contro la crisi scatenata dal coronavirus, ma questo non significa che si debba perseguire un compromesso con tutti i 27 paesi dell'Unione. E sul meccanismo europeo di stabilità, sottolinea Conte, il governo valuterà cosa fare al termine del negoziato europeo sul Recovery Fund. L'Unione Europea ha bisogno di un accordo sul Recovery Fund, dice la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo primo discorso da Presidente di turno dell'Unione Europea. L'obiettivo è un intesa rapida entro l'estate, spiega la cancelliera tedesca, ma serve un compromesso e tutti, ribadisce, sono chiamati a mettersi nei panni dell'altro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via libera intanto l'Unione Europea allo schema italiano da 6,2 miliardi di euro per sostenere le piccole imprese e gli autonomi danneggiati dal coronavirus, ma poi ci sarà spazio per approfondire ulteriormente questi temi. La politica italiana, il centrodestra, è pronto a incontrare il Presidente del Consiglio Conte la settimana prossima, lo fanno sapere fonti appunto del centrodestra. L'ipotesi di organizzare il confronto già domani non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi. Queste sono le argomentazioni appunto da parte del centrodestra, per questo slitta di una settimana l'incontro. All'estero adesso l'FBI, parliamo di Stati Uniti, l'FBI apre un nuovo caso legato allo spionaggio cinese. Ogni 10 ore quasi la metà dei 5.000 casi in corso sono collegati a Pechino. Con questi dati il capo dell'FBI, Wray, ha rilanciato l'allarme dell'amministrazione Trump sul pericolo rappresentato dal Dragone, definendolo la più grande minaccia a lungo termine per gli Stati Uniti. La posta in gioco non potrebbe essere più alta, la Cina è impegnata in uno sforzo completamente statale per diventare l'unica superpotenza mondiale con qualsiasi mezzo necessario, dice l'FBI. Scontro quindi totale dalla OMS alle armi nucleari, poi per tutto questo ci collegheremo con gli Stati Uniti. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. Il 41enne di Terni, sottoposto a fermo, ha ammesso subito di aver ceduto metadone ai due adolescenti di 15 e 16 anni, poi morti nel sonno. Dirimente per le indagini e la collaborazione dei giovani amici delle vittime. Ha confessato subito di aver ceduto del metadone ai due adolescenti di Terni di 15 e 16 anni, poi trovati morti nel sonno dalle rispettive famiglie. Il 41enne Aldo Maria Romboli, sottoposto a fermo in carcere. Lo stesso metadone che gli era stato fornito presso il CERT, essendo seguito come tossicodipendente, ha chiarito l'avvocato Massimo Carignani, difensore dell'uomo. Domani mattina è prevista l'udienza di convalida del fermo. A suo carico è stato ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Un caso risolto in poche ore dai carabinieri di Terni, ha spiegato il procuratore capo Alberto Liguori, anche grazie alla collaborazione di giovanissimi amici delle vittime. Grazie anche alla collaborazione del mondo giovanile, perché sono i giovani che non sanno mentire, non vogliono mentire e hanno il coraggio, cosa che mancano gli adulti. Ma a colpire il procuratore Liguori è stata anche la loro dimestichezza con il mondo delle droghe, un aspetto, spiega, che come collettività deve preoccuparci. A fare chiarezza sulle sostanze che hanno determinato il decesso dei minori saranno gli esami autoptici e tossicologici previsti venerdì prossimo a Perugia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un uomo sieropositivo dal 2012 potrebbe essere il primo ad aver sconfitto il virus dell'HIV. Un uomo brasiliano potrebbe essere la prima persona al mondo ad aver sconfitto il virus dell'HIV dopo un trattamento con un nuovo cocktail di antiretrovirali, il primo guarito dunque senza bisogno di trapianto di midollo, come successo in precedenza a due pazienti di Londra e Berlino. Una vicenda illustrata dai ricercatori dell'Università Federale di San Paolo alla conferenza AIDS 2020. L'uomo sieropositivo dal 2012, spiegano gli esperti, partecipava alla sperimentazione di una terapia basata su un mix aggressivo di antiretrovirali e nicotinamide. Ha smesso i trattamenti a marzo 2019 e il virus finora non è tornato. Una buona notizia che però si somma ad una meno buona, con l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla forte carenza di farmaci per l'AIDS durante questo periodo di pandemia in ben 24 paesi, dove sono in terapia 8,3 milioni di persone. Tra le cause l'incapacità dei fornitori di consegnare i farmaci in tempo, lo stop dei trasporti, unitamente ad un accesso limitato ai servizi sanitari. Tutto ciò, secondo l'OMS, potrebbe portare addirittura ad un raddoppio dei decessi correlati all'AIDS nell'Africa subsahariana nel solo 2020. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E poi per chiudere il calcio con la Serie A maschile ci sono ben 12 squadre in campo, poi soprattutto alle 21.45 l'Atalanta. Per noi c'è Dario Ricci a raccontarci tutto questo con gli occhi che gli girano come biglie a seguire tutte le 12 squadre. Dario? Assolutamente, oggi è complessa. Serata impegnativa, cara Roberta, perché sono tanti i campi da seguire, però per fortuna un po' spezzettati perché siamo negli ultimi minuti, salvo recupero delle due gare delle 19.30 di questo mercoledì della 31esima di Serie A, siamo all'87esimo sia a Firenze che a Marassi a Genova. Allora Fiorentina e Cagliari sono sullo 0-0, mentre a Marassi il Napoli è in vantaggio per 2-1, Napoli che è passato in vantaggio alla fine del primo tempo con Mertens, poi al 49esimo inizio della ripresa il pareggio genuano con gol d'Aniga, al 66esimo la rete del nuovo vantaggio partenopeo siglata da Lozano. Alle 21.45 le altre quattro gare di questa serata: Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Roma-Parma e Torino-Brescia. Grazie caro Don Ricci, ottima. Grazie questa sintesi, poi ci aggiorneraiamo dopo nel corso di Effetto Note. Adesso diamo spazio alla viabilità e aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade. E a proposito di strade e autostrade, tra poco torniamo sul caso del giorno con la nuova polemica, il nuovo caso politico scoppiato sulla questione del ponte di Genova e sulle concessioni ad Aspi e la decisione della Consulta. 349-238-6666 è il numero per i vostri commenti via WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Poi dice questa ascoltatrice Anna, a proposito dei dati preoccupanti del sondaggio Doxa su la grande, alta, altissima percentuale di famiglie italiane che dicono di non riuscire ad arrivare alla fine del mese dopo la crisi da coronavirus, dice: come volontaria raccolgo e distribuisco alimentari da più di 20 anni, ora è proprio da piangere, tanti troppi italiani, dice Anna. Poi questo ascoltatore, mi pare che faccia riferimento alla notizia sul caso dell'uomo che con un mix di medicinali pare uscito dall'HIV, dice: ma come, ci sono 8 milioni di malati di AIDS in soli 8 paesi, ma il Covid-19 non era il virus più pericoloso della storia dell'uomo. Ci sono ancora i negazionisti, c'è poco da fare, ma non diamo importanza, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Moltissime notizie, come sempre Roberta Giordano con voi. Il numero per i vostri WhatsApp e commenti è 349-238-6666 e poi la pagina Facebook di Effetto Note, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. E direi senz'altro che come primo tema di approfondimento di questa puntata punterei senz'altro sulla polemica del giorno, vi dicevo, che certamente riguarda una questione non di poco conto, perché si parla del nuovo ponte di Genova, che rispettando i tempi dovrebbe essere inaugurato il prossimo 29 luglio, quindi si tratta veramente di pochi giorni, e della travagliata questione delle concessioni autostradali dopo il crollo del ponte Morandi, ricordate il 14 agosto 2018 che provocò ben 43 morti. Qual è la questione? La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha firmato una lettera inviata al sindaco di Genova Marco Bucci, che è anche il commissario alla ricostruzione del ponte, con cui riaffida la gestione del viadotto a Autostrade per l'Italia ad Aspi, che sapete fa capo alla famiglia Benetton. Questo come prevede la convenzione del 2007 che regola i rapporti tra Stato e la società controllata da Benetton. Si tratta di un adempimento tecnico-giuridico che però molte fonti oggi hanno definito come difensivo da parte del governo, sostenendo che sia un'azione del governo di autotutela contro eventuali richieste di risarcimento danni da parte di Aspi. Proprio nel giorno in cui si attendeva la decisione della Consulta sul ricorso che Aspi aveva fatto alla Corte Costituzionale perché era stata esclusa dalla demolizione e dalla ricostruzione del ponte. Però, come vi dicevo prima, la decisione è arrivata poco più di un'ora fa da parte della Consulta, che dice non è illegittimo, quindi è legittimo, estromettere Autostrade per l'Italia dalla ricostruzione del ponte Morandi. La Corte Costituzionale ha respinto così il ricorso presentato dalla società sulla sua esclusione dalla procedura per la scelta delle imprese alle quali affidare le opere appunto di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ora, tra poco vedremo un po' che cosa comporta tutto questo, come cambia le questioni in gioco, però intanto sentiamo che cosa ha detto oggi la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli a proposito di questa lettera che appunto ha suscitato molte polemiche, ha diviso il governo, in particolare tra le due forze di maggioranza, PD e Movimento 5 Stelle. Sentiamo Paola De Micheli a 24 Mattino qui a Radio 24. Sì, sì, la lettera al sindaco Bucci l'ho firmata io. Al sindaco Bucci ho mandato una lettera perché avevamo avuto una riunione qualche giorno fa nella quale lui aveva chiesto e forse aveva anche scritto quali dovessero essere i percorsi prima dell'inaugurazione del ponte, e io gli ho confermato tutta la procedura di collaudo, della consegna e ovviamente anche quella della gestione post inaugurazione, che è appunto una gestione che va al concessionario. Ne abbiamo scritto questo. Ovviamente in questa fase il concessionario ASPI, e poi come sapete tutti, questa vicenda è soggetta, diciamo così, ad un'ultima fase sulla vicenda della revoca e sulla vicenda degli inadempimenti delle manutenzioni. Così ha spiegato oggi la ministra De Micheli, però appunto vi dicevo, governo diviso su questa decisione di affidare pro tempore ad ASPI il ponte come atto dovuto verso l'attuale concessionario. La ministra De Micheli ha anche sottolineato che questo affidamento pro tempore non esclude poi la revoca. Il Movimento 5 Stelle però torna all'attacco, sapete, il suo cavallo di battaglia subito dopo il crollo del ponte Morandi, con Crimi che dice il capo politico non arretriamo, il ponte non va riconsegnato Benetton, Di Maio che dice che bisogna mantenere le promesse fatte alle famiglie e i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade, tantomeno il ponte. Toninelli, sentiamo l'ex ministro dei trasporti, lo era nel momento in cui crollò il ponte Morandi, che cosa ha detto oggi? È sbagliatissimo dire che l'autostrada, che il ponte va ridato al concessionario, potrebbe essere anche giuridicamente corretto, non lo so, le carte ce l'ha la ministra De Micheli, io non lo so, perché non sono più lì io, se ci fossi stato io quel ponte Benetton se lo sognavano, troviamo una soluzione, ma con il silenzio, questi si fanno forte, continueranno a condizionare la politica, a condizionare la stampa e a trasformare la gente per bene in cattivi. Il PD dice bisogna decidere in tempi brevi. Il Partito Democratico in una nota dice, ha sollecitato più volte il governo ad assumere rapidamente le decisioni da troppo tempo attese. Conte parla di situazione paradossale. Purtroppo la situazione è paradossale. Non solo è paradossale, rischia di diventare assurda. Cioè fino a quando il concessionario è autostrade, è evidente che il ponte non può che automaticamente essere nella concessione di autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere questa procedura. E Conte ha detto che entro una settimana verrà deciso. Da parte dell'opposizione l'attacco di Salvini, che dice i 5 Stelle sono ridicoli e bugiardi, cosa non si fa per salvare la poltrona. Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dice l'annuncio dell'affidamento della gestione al nuovo ponte di Genova ad Autostrade dei Benetton è il de profundis del Movimento 5 Stelle. Gli sfollati del ponte si dicono basiti e il presidente della regione Toti dice sono stati 2 anni dilatati di minacce, di bugie. È così, presidente Toti? Buonasera Giovanni Toti, presidente della Liguria. Buonasera, ho ascoltato il vostro corretto resoconto della giornata di oggi, che credo che resterà, come dire, tra le giornate più surreali della storia d'Italia. Vede, la situazione è francamente paradossale ed è l'unica cosa sensata che ho sentito dire al presidente del Consiglio Conte. Allora, che io non so di quale peccato vogliamo accusare questo governo. Se la concessione non è ritirabile perché le condizioni non ci sono, ed io non lo so perché le carte ce l'hanno solamente il Ministero e la concessionaria, e devo dire sono anche piuttosto gelosi dell'intromissione di altri soggetti in questa vicenda, allora hanno mentito agli italiani dicendo che l'avrebbero ritirata. Se invece potevano ritirarle e non l'hanno fatto, hanno ovviamente omesso di fare quello che è stata la promessa degli ultimi 2 anni. Io so i risultati di tutto questo. I risultati di tutto questo è che il ponte è stato costruito grazie all'impegno delle istituzioni locali, è pronto e quindi verrà riconsegnato a chi ci diranno di riconsegnarlo e sarà un pezzo funzionante. Dall'altra parte sono stati 2 anni di promesse, di minacce, di grida manzoniane, che ha portato a ritardi sulle infrastrutture da costruire, come la Gronda, ritardi che è stata inserita nel decreto semplificazioni, non ho capito perché, visto che ritardi sulle manutenzioni, ritardi su tutto quello che è stato che si doveva fare, se è stato semplicemente una grande gazzarra politica senza risultati. Di questo sono totalmente responsabile. Però Presidente Toti ha sentito appunto della decisione della Corte Costituzionale di circa un'ora fa. A questo punto non è soltanto un dar ragione a quello che il governo aveva fatto in quel momento, cioè escludere ASPI dalla demolizione e ricostruzione del ponte, ma diciamo che fa ancora più traballare la posizione di ASPI in questo momento. Quindi... Ma francamente non credo, nel senso, io non sono un giurista, poi leggeremo le motivazioni, ma il ponte è sostanzialmente finito e la Corte si è espressa sulla ricostruzione del ponte, e fin dall'inizio noi eravamo convinti che il ponte lo dovessero fare del Salini in pregilo, Fincantieri, Italferre, Enzo Piano, era una cordata diciamo costruita da tempo e che poi in qualche modo è stata ufficializzata dal decreto Genova. Il ponte è finito, si stanno asfaltando le strade, montando i New Jersey, quindi qualsiasi cosa avesse deciso Società su Strade poteva eventualmente inerire a un risarcimento del danno, a un contenzioso ulteriore tra governo e autostrade, ma non al risultato finale. Però, Presidente Conte, a questo punto diciamo che forse dà un ulteriore impulso al governo, no? Verso la revoca, si avvicina la revoca. Probabilmente era attesa, il governo attendeva questa sentenza per sentirsi ancora più forte. Non siamo ridicoli, sono due anni che si deve decidere su questa cosa. Sono due anni che si digrignano i denti dicendo che Autostrade deve lasciare quell'incarico e non si fa niente. Poi si ventila il fatto che sia ANAS a gestire le autostrade italiane, rendere pubblico tutto, peccato che si è sbriciolato un ponte di ANAS a pochi chilometri dalla mia regione, tra Liguria e Toscana, che era stato considerato un ponte sano e in piena efficienza, e le macerie per altre sono ancora lì. La statale numero uno che attraversa la mia regione, non la numero 100, la numero uno è piena di cantieri risolti e sensi unici alternati. ANAS, con tutto il bene che gli vogliamo, non è certamente in grado di fornire un supporto da questo punto di vista. Sulle concessioni nessuno ha mai detto la verità, c'è un processo che stabilirà le colpe penali, speriamo presto, di quello che è accaduto, e ora tutto quello che non è stato fatto in due anni si dovrebbe fare, ma io ne vedo i risultati, guardi, tutto quello che non si fa in due anni si vuol fare in una settimana, cioè aggiustare tutte le gallerie della Liguria, che è paralizzata da un piano folle di messa in sicurezza delle gallerie, che però mette in profonda insicurezza l'intera regione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sanitario, e poi dall'altra parte ritirare le concessioni che si sono ritirate in due anni di lavoro, farlo in una settimana prima che arrivi Ferragosto. Lo possono anche fare, la disperazione porta a gesti estremi, però francamente... Se è così che si programmano i lavori dello Stato, io sono veramente molto perplesso. Senta, sentiamo anche un altro passaggio della ministra De Micheli a proposito appunto della manutenzione dei controlli sul resto della rete stradale autostradale intorno a Genova questa mattina, 24 mattino, appunto Radio 24. Noi quando siamo arrivati siamo stati i primi dopo decenni a impostare un lavoro sulla sicurezza con criteri omogenei per tutti, non solo per Autostrade per l'Italia. Allora, ovvio, noi appena abbiamo avuto la prima mappatura, la situazione, da gennaio abbiamo chiesto ad Autostrade per l'Italia di fare gli interventi. Il tema della modalità degli interventi è legato al fatto che ad oggi formalmente c'era in vigore la circolare del 67 che imponeva una modalità di controllo a vista. Quindi vuol dire che tu le onduline te le devi smontare una a una. Voi avete idea cosa vuol dire smontare le onduline di 156 gallerie? Ecco bene. Allora, noi abbiamo detto fin dall'inizio che per noi andava bene anche un controllo con le nuove tecnologie, cosa per la quale siamo addivenuti ad una circolare dove abbiamo detto per semplificare e accelerare i controlli possiamo utilizzare nuove tecnologie, georadar. Come commenta, Presidente Toti? Ma se non avessi profondo rispetto per le istituzioni, direi che, come dire, sono inesattezze, ecco, voglio essere corretto fino in fondo, un altro direbbe balle, nel senso che i controlli sono stati iniziati dopo il crollo della galleria Bertè, si è steso tutto il lockdown dei controlli che poi sono stati giudicati inefficaci, si è tirata fuori una circolare del 67 di cui nessuno conosceva l'esistenza, ma guarda caso si applica alla sola Liguria e viene comunicata il 29 di maggio e tutto deve essere fatto in 2 settimane. Quando diciamo molto banalmente al Ministero, attenzione che la sicurezza strutturale della rete deve conciliarsi con la sicurezza funzionale, ovvero per non morire su un sasso che mi cade in testa, non vorrei morire soffocato dal monossido di carbonio in galleria o in un'ambulanza che non arriva all'ospedale o peggio in un incidente nei decine di chilometri di senso unico alternato o morire di fame perché la Liguria la stanno strangolando, il Ministero non ha mai risposto lo sillabo, perché la leale collaborazione istituzionale è la base della nostra carta suprema del nostro Paese. Il Ministero delle Infrastrutture non si è mai seduto a un tavolo con la Regione, che pure ha sottolineato in 1000 atti la drammaticità della situazione. Se lei va dal medico e si è trascurata per un decennio e quel medico le ordina di fare tutte le visite e prendere tutte le medicine che in un decennio non sono state prese, qual è il risultato secondo lei? La famosa frase: operazione, ricetta perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. È quello che sta succedendo, perché nessuno si vuole assumere una responsabilità, e il ministro per primo. Senta, presidente Totti, le faccio sentire Egle Possetti, presidente del comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, oggi intervistata da Alessio Maurizi a Effetto Giorno, che cosa ha detto a proposito appunto del ponte e di questa polemica. Noi dobbiamo cercare di essere il più possibile lucidi, nel senso che ovviamente il cuore ci direbbe delle cose, però il nostro ragionamento va in questo senso. Come si poteva pensare di lasciare un ponte costruito in emergenza, quindi con dei criteri diciamo non ordinari, e lasciarlo fermo? Da questo punto di vista noi pensiamo che fosse anche difficile tecnicamente affidare questo pezzo a qualcuno di diverso, ma questo per noi deve avere il significato di un affidamento pro tempore, perché noi stiamo chiedendo già da tempo che ci sia un pronunciamento sulla concessione in generale. Ormai sono trascorsi quasi 2 anni, quindi dobbiamo avere delle risposte, credo che tutti gli italiani debbano averle. Non è ammissibile che sia ancora in piedi una concessione di questo tipo dopo quello che è successo a Genova. Ecco Toti, e Marcucci del PD dice oggi: i populisti sanno solo soffiare sul fuoco, il caso di Genova viene ricostruito un ponte in tempo record, dice, un vanto nazionale, orgoglio dei Liguri, di tutti gli italiani, tutti sanno, dal presidente della regione Liguria Toti a Salvini e anche molti esponenti del Movimento 5 Stelle, dice Marcucci, che per riavviare il traffico sul nuovo ponte la gestione deve essere affidata agli stessi gestori delle autostrade, tutti lo sanno, eppure oggi tutti si scagliano contro una decisione scontata, una decisione persino ovvia. Se lei, presidente Toti, fosse al governo, molto sinteticamente, che cosa farebbe? No, mi consenta, io non mi scaglio contro la decisione, men che meno mi considero populista. Io sono una persona ragionevole, moderata, come può sentire anche dai toni, e cerco di usare vocaboli appropriati e mai rispettosi. Io sto chiedendo un'altra cosa. Io sto dicendo: per quale ragione, visto che l'esito finale tutti considerano scontato, che fosse questo, per 2 anni si è discusso di altro, bloccando gli investimenti di società autostrade nella mia regione in Italia, bloccando la gronda che fa parte del piano di investimenti di autostrade già pagato dal pedaggio dei Liguri, su cui Regione Liguria ha già investito 50 milioni di euro per gli espropri in attesa di una decisione sulla concessione. Non si è investito praticamente in niente in attesa di questo giudizio divino, di questa ordalia sulla concessione, mentre oggi tutti quanti sapevano che sarebbe andato a finire così. Guardi, lo sapevo anch'io che sarebbe andato a finire così nell'inconcludenza generale di questo governo, ma il problema è che si è detta tutta un'altra storia. Se fin dall'inizio si fosse detti: cari signori, la situazione di autostrade in Italia è problematica, investimenti mancanti da 30 anni, dovremo fare un percorso, dovremo ripensare i contratti, dovremo ripensare una metodologia di gestione, ci vorrà tempo, ci vorrà testa, ci vorrà un lavoro di lima, di cacciavite e non di martello, non ci avrei trovato nulla di male. Ma se uno tutti i giorni si affaccia al balcone e dice che ha sconfitto la povertà, che ha sconfitto le autostrade, che ha sconfitto sconfisse il cancro, che ha sconfitto il Covid, e poi si scopre svegliandosi una mattina che di tutto questo non è stato sconfitto niente, io non ce l'ho col fatto che non sia riuscito a sconfiggerlo, ce l'ho sul fatto che ha raccontato un sacco di palle per 2 anni, e chi governa l'ottava democrazia del mondo non può governare con le palle. Chiarissimo. Grazie Presidente Giovanni Toti, speriamo grazie che insomma le cose prendano il verso giusto una volta per tutte. Grazie. Io peggio, guardi, non riesco neanche a immaginare. Grazie. Ci fermiamo momentaneamente, pausa di riflessione, siamo in ritardissimo, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata da Roberta Giordano tutte le sere per voi dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Abbiamo parlato lungamente con il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a proposito del caso politico scoppiato oggi dopo la lettera della Ministra De Micheli sull'affidamento ad Aspi dell'inaugurazione, della gestione del ponte di Genova, del nuovo ponte di Genova, e dall'altra anche che cosa cambia rispetto alla decisione della Corte Costituzionale che ha sancito che non è stato, che l'espressione questa, non è stato illegittimo escludere Aspi dalla demolizione e ricostruzione del ponte di Genova. Adesso vediamo come prosegue questa annosa vicenda. Ora invece parliamo delle misure economiche a livello europeo per arginare la crisi dovuta al coronavirus. La tragica esperienza del coronavirus ha unito ancora di più i nostri paesi, ha rafforzato la nostra convinzione che bisogna lavorare in sintonia per una rinascita delle nostre società e delle nostre economie. Questo ha detto il Presidente del Consiglio Conte oggi nel suo tour europeo, era a Madrid, si è incontrato col Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez e hanno trovato un accordo, insomma un'intesa sul Recovery Fund per arrivare a una soluzione entro luglio. Una giornata, questo mi riferisco subito al nostro Sergio Nava, molto intensa dal punto di vista europeo, sia per questo incontro così importante, sia per le dichiarazioni anche della cancelliera Merkel, cancelliera tedesca, sull'auspicio di una rapida conclusione di un accordo ambizioso per un piano europeo di rilancio. Vero Sergio? Sì, ciao Roberta. Beh, diciamo pure che questa è stata una giornata di grande pretattica negoziale. Ricordiamo che il 17 e 18 luglio ci sarà un vertice molto importante a Bruxelles, quindi un po' tutti gli schieramenti oggi hanno da un lato negoziato, da un lato hanno ribadito le loro posizioni, poche le novità sostanziali. Allora, Italia e Spagna hanno rinsaldato un asse mediterraneo che è nei fatti, comprende anche il Portogallo, la Francia, quell'asse che insieme alla Germania sostiene la proposta della Commissione europea di un piano di un fondo europeo per la ripresa da 750 miliardi più altri 1100 miliardi circa per il budget settennale. E poi c'è ovviamente anche, ci sono anche i contrari. Mi soffermerei un attimo sulla Merkel, perché la Merkel è stata abbastanza esplicita oggi parlando all'Europarlamento. Dove... Possiamo anche sentirla in sottofondo, ecco, sentiamo. La Merkel, sentiamo un po' di tedesco. Di quello vero, ecco. Bisschen Deutsch. Vor dem Plenum des Europäischen Parlaments zu sprechen. Prego Sergio. Ecco, dicevamo che Angela Merkel, la cancelliera, ha avvertito, ha ammonito, siamo di fronte all'abisso della crisi economica, ha difeso i 500 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto che lei e Macron hanno proposto per i paesi più colpiti, tra questi ovviamente l'Italia, e poi quei 500 miliardi sono confluiti nei 750 proposti successivamente dalla Commissione europea. La stessa Merkel si è vista in serata con gli altri 3 leader delle istituzioni comunitarie. Perché? Perché da un lato hanno ribadito la posizione comune che bisogna chiudere entro questo mese, possibilmente già la prossima settimana. Dall'altro però hanno dovuto limare quella proposta di compromesso che poi il presidente europeo Michel porterà al vertice. Dicevamo, Roberta, anche degli altri fronti contrari. Oggi i 4 nordici frugali, Austria, Olanda, Danimarca, Svezia, Italia si sono visti in teleconferenza, hanno coordinato le proprie posizioni, la loro probabile opposizione a questa proposta di recovery fund, e sul fronte orientale Visegrad il premier ungherese Orban ha detto di fatto che non crede in un accordo la settimana prossima. Diciamo l'opposizione di Visegrad è un po' più debole, perché sostanzialmente vogliono più soldi dalla torta dei 750 miliardi, quindi diciamo sono più facili da accontentare. Però di certo si sta continuando a ribadire in questo momento ciascun fronte la propria posizione, e per ora non si vedono grandi compromessi in vista. Speriamo che i prossimi giorni portino consiglio. Grazie Sergio Nava, consiglio su tanti aspetti, diciamo, che ci riguardano molto da vicino. Adesso c'è invece l'aggiornamento per chi sta viaggiando. Torno a Ratta con la Folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Molti che accusano gli uni e gli altri schieramenti politici di aver affidato tempo addietro le concessioni autostradali a Benetton, diciamo che probabilmente c'è un po' il contributo di tutti. Era stato nel 2008 in particolare il governo di Berlusconi, e poi è vero che il governo Prodi aveva allungato la concessione Autostrade per l'Italia, ma obbligando i concessionari poi a delle rigorose verifiche periodiche. Però non torniamo su questa polemica, invece ci colleghiamo con gli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania. Caro Marco, buonasera. Con Trump più scatenato che mai, che minaccia, anzi mi pare che abbia già annunciato che gli Stati Uniti si sottrarranno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi taglieranno definitivamente i finanziamenti. Poi Trump ha anche minacciato il presidente americano di tagliare i fondi alle scuole che non riapriranno, mentre i democratici sono contrari alla riapertura. E intanto siamo arrivati a un record di 3 milioni di casi di contagi negli Stati Uniti, Marco. È così, sì, hai riassunto, devo dire, in modo molto efficace una situazione molto tesa e per certi versi paradossale, e diciamo dove l'escalation dello scontro politico sale quotidianamente come il conto delle infezioni, dei casi di coronavirus. Come ricordavi, Trump ha messo in moto il processo di uscita dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che accusa, diciamo, di essere di fatto responsabile della gravità della crisi della pandemia negli Stati Uniti, perché lui dice è stata lei che non ha lanciato gli allarmi in maniera adeguata, che era troppo servile alla Cina, e così facendo chiaramente lancia in realtà un messaggio politico, una campagna politica in cui identifica un nemico esterno. Per questo lo accusano i suoi critici, ma non in modo infondato. Trova un nemico esterno per, diciamo così, nascondere, cioè coprire comunque quelle che sono state le carenze della sua leadership, perché ricordiamo che anche quando l'OMS lanciava gli allarmi era lui che li ignorava, diciamo, era così lui come che Bolsonaro, no, il presidente brasiliano. Esatto, diciamo lui, Bolsonaro, Putin, Johnson, che poi alla fine si è ammalato, diciamo, e poi è tornato su suoi passi. No, Trump continua in quella direzione. Senti, fra le altre cose, mi pare che sia in uscita, che farà gran chiasso, un libro di una nipote di Trump, Mary Trump, che si intitola Too Much, Never Enough, troppo e mai abbastanza, in cui spiega come la sua famiglia abbia creato un mostro, la famiglia Trump abbia creato il mostro Donald Trump, e lei definisce un bambino nel corpo di un adulto, un imbroglione seriale, un insicuro sempre in cerca di attenzioni e che maschera i suoi complessi sviluppando rabbia e aggressività. E ancora dice un narcisista divenuto presidente per caso. Un libro bomba, sta per uscire? Sì, sì, sta per uscire, uscirà la prossima settimana, ma stralci, come leggevi, sono già usciti sui media americani, su vari media americani. Trump aveva cercato di bloccarlo in tutti i modi, portando in tribunale la nipote, dicendo che violava accordi, diciamo così, di non disclosure, di silenzio, che erano stati pattuiti in anni passati. Diciamo nella spartizione dell'eredità del padre padrone del clan dei Trump. In realtà Mary Trump dice: no, io non sono tenuto a rispettare quegli accordi perché voi mi avete truffato sull'eredità, quindi perché nelle manovre, diciamo, finanziarie di Trump avevano appunto Donald e uno dei suoi fratelli avevano molto sottovalutato l'eredità e in realtà quindi danneggiando e penalizzando Mary Trump e suo fratello, che erano figli del primogenito di Trump e che potrebbero quindi avere il dente avvelenato. Aspettiamo l'uscita di questo libro e poi ci racconterai. Grazie a Marco Valsani da New York. Ciao caro Marco, un abbraccio. Ciao Marco. Torniamo sui campi della Serie A maschile con il nostro Dario Ricci. Gli aggiornamenti quali sono, Dario? Eccoci qua cara Roberta. Allora, subito la cronaca delle due gare che si sono concluse da qualche minuto, le gare delle 19:30, la vittoria del Napoli a Marassi contro il Genoa per 2-1, sancita dal vantaggio partenopeo di Mertens al 46esimo, poi il momentaneo pareggio genuano con gol d'Aniga al 49esimo e poi al 66esimo la rete decisiva di Raul Lozano. 0-0 invece nell'altra sfida delle 19:30 a Firenze tra Fiorentina e Cagliari. E per quanto riguarda le gare della serata, tutto intorno al decimo minuto di gioco, stavo prendendo tempo perché nel frattempo il Parma è passato in vantaggio a Roma 1-0 con un calcio di rigore, fra poco vi dirò anche il marcatore, invece 0-0 su tutti gli altri campi, che lo ricordiamo sono quelli di Bergamo con Atalanta Sampdoria e poi Bologna 0-0 tra Bologna e Sassuolo e 0-0 tra Torino e Brescia. Adesso qualche istante vi dico anche il marcatore di Roma-Parma, assolutamente è Kučka su calcio di rigore al nono minuto, un fallo di Cristante su Corneliuson e calcio di rigore trasformato da Kučka, crisi nera. Grazie. Per la Roma, Roberto. Grazie caro Dario Ricci, ci sentiamo alle 22.